nostri soldi su una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Carissimo, buongiorno, bentrovato. Oh, buongiorno Deborah, come sei amichevole questa mattina? Cosa perché è successo? Gli altri giorni no? No, talvolta, come dire, sono un po' più pungente. Sei più caustica, ecco. Caustica mi sembra un aggettivo adatto. Il calcio ieri sera ha dato soddisfazione a me. Ecco, abbiamo portato a casa umore. Quantomeno un buon risultato di mezza settimana che ci rende più sereni verso il weekend, così. Ho capito, perché hai seguito la partita della Roma, scommetto. Sì, certamente. No, non era quella. Allora, guarda, io non è che le seguo le partite, però cioè, do un'occhiata al risultato finale. E ieri sera c'era una partita importante per noi, così ho verificato. Ho capito, sono come dire, tornei che non ci riguardano e perciò io passerei oltre. Sono venuto, come vedi, armato di carta, penna, non calamaio, perché non ho è che hai un altro decreto fiscale che mi è sfuggito, nel no, caso no, no, mi il fosse decreto sfuggito fiscale qualcosa, come sai è sempre con me, ma archiviato. È nel mio cuore e anche sul Sole 24 Ore di oggi, perché abbiamo la prima puntata della guida alla rottamazione delle cartelle. Se vi foste persi la puntata di ieri di Due di Denari, nella quale abbiamo parlato in lungo e in largo della nuova rottamazione delle cartelle esattoriali, con tante vostre telefonate, chiamate e segnalazioni, peraltro. Allora vi invitiamo a leggere, anche a completare la vostra preparazione, il vostro piacere anche di apprendere tutto sulla rottamazione. Esatto. Con il Sole di oggi. No, tra l'altro avete fatto la paginona con domande e risposte. Per chi volesse andare a caccia di notizie sul sito del Sole 24 Ore, c'è anche il richiamo alla trasmissione di ieri di Due di Denari. Ormai interagiamo al 100%. Detto ciò, i temi di cui parliamo oggi, faremo un piccolo focus iniziale, Mauro, ancora una volta su Wall Street, perché oggi è il vero anniversario del lunedì nero di Wall Street, anche se oggi è giovedì, però si è celebrato esattamente il 19 ottobre, si è celebrato, se possiamo parlare di celebrazione, quel giorno festeggiarono ben poco, 30 anni fa il crollo della borsa americana che adesso analizzeremo, lo abbiamo già fatto anche lunedì scorso nel corso di Meteo Borsa, ma oggi con un altro esperto racconteremo un po' di similitudini e rispetto a quella fase, che cos'è cambiato in questi 30 anni. Lo facciamo per scaramanzia, naturalmente, vorremmo dire, cioè è successo 30 prendiamo anni fa. Prendiamo tutti i cornetti del caso. Ma stiamo facendo scongiuri di qualsiasi Infatti. Tipo. Ma visto che cominciamo anche ad annusare la manovra di bilancio che arriverà nelle prossime settimane, c'è una bella novità che non ci piace tanto, che potrebbe essere in arrivo, poi lo sai che la potrebbero anche sconfessare domattina, ma intanto prepariamo il terreno. Ma sì, perché oggi ci tocca parlare delle polizze vita. Come mai, direte voi? Perché si sta immaginando, è una proposta, si vedrà, si sta immaginando di farci un mini prelievo, per così dire, che poi tanto mini alla fine potrebbe non essere, un 2 per 1000 sulle polizze vita del ramo primo, ma di questo parleremo anche qui in modo accurato, così da capire dove andrebbe a cadere, usiamo sempre il condizionale, dove andrebbe a cadere dal 2018 questa, beh, diciamolo insomma, nuova tassa. Infatti. Allora, tra l'altro sono temi che ci vanno molto bene, visto che oggi è giovedì, c'è la nostra consueta rubrica di approfondimento Investire Informati, per cui per tutti questi argomenti come sempre avete la possibilità di interagire con noi all'800 24 00 24 se avete piacere di intervenire in diretta e di chiacchierare con noi. In alternativa non il carta e penna, numero. Ma no, esatto. 349 238 6666 per i vostri SMS o WhatsApp. Non carta e penna, ma in questo caso tastiera e smartphone o computer o qualsiasi altro device vi sia gradito per scriverci una email, perché no? E potete mandarci un'email a 2didenari@radio24.it. Il 19 ottobre del 1987, fin dalle prime ore del mattino, l'America vive la giornata peggiore della sua storia finanziaria. All'apertura di borsa le contrattazioni riguardano solo pochi titoli. Improvvisamente gli ordini di vendita iniziano a crescere. La SEC fa sapere di essere intenzionata a bloccare le contrattazioni. È il panico. Nessuno sa quello che sta per accadere. Nessuno è più in grado di confermare gli scambi. Abbiamo già proposto questo brano tratto da questo documentario che ricostruisce il Black Monday. Adesso, tra l'altro, da Marco Lombardo ci faremo anche dare i dettagli di questo filmato, perché anche lunedì scorso alcuni ascoltatori ci avevano chiesto: ma dove l'avete preso? Andando a caccia appunto su internet, abbiamo anche noi le nostre fonti, non solo le nostre colonne sonore adeguate al programma. Marco, Mauro e Giulia Lauricella sono due cacciatori di files e quindi come degli Indiana Jones vanno alla ricerca, esatto, nella una rete di ciò che di tutto ciò che di audio potrebbe essere adatto alla bisogna. Allora, ieri, alla vigilia di quello che oggi è il 30° anniversario del Black Monday, il Dow Jones, il principale paniere del mercato americano, ha chiuso per la prima volta sopra la soglia dei 23.000 punti. Il livello era già stato conquistato il giorno precedente, ma l'indice delle 30 blue chip non era riuscito a mantenere, appunto, nella seduta precedente fino alla fine della giornata questa soglia, raggiunta invece e confermata ieri sera. Anche lo Standard & Poor's 500 e il Nasdaq Composite hanno finito gli scambi a livelli senza precedenti. Peraltro è la tecnologia che ancora vola a sostenere il Dow Jones. Ieri ci ha pensato IBM, che ha chiuso con un rialzo di più di 8,5 punti, dopo i dati di bilancio che sono stati diffusi, appunto, peraltro nel corso della giornata. Siamo nel pieno della stagione delle trimestrali americane, ma a spingere il mercato, oltre ai buoni conti di Corporate America, è ancora una volta, come sappiamo, la grande liquidità in circolazione che c'è erogata a piene mani in questi anni, direi, dalle banche centrali. Ma per fare un esame rispetto a questo andamento del mercato americano, caro Mauro, ho invitato stamattina Carlo Benetti di GAM Italia, che saluto, buongiorno e bentrovato. Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti all'ascolto. Allora, ci sono tanti elementi interessanti da commentare rispetto all'andamento di Wall Street, ma le chiedo subito, Benetti, lei che fa tante analisi anche storiche di questi mercati, quindi non guarda semplicemente agli aspetti finanziari, che caratteristiche ha questo mercato americano rispetto a 30 anni fa? Se dovessimo fare un parallelo rispetto a quella fase, quali sono gli elementi di maggiore robustezza che ci sono oggi e quelli che sono invece di maggiore fragilità? Ha ragione di essere così Wall Street, di avere questa condizione di così tanta euforia? Beh, ci sono molte differenze, perché sono passati 30 anni, è cambiato il mondo, è cambiato il mercato, si sono rafforzati i presidi regolamentari sull'attività degli operatori, ma ci sono anche delle invarianti, come ad esempio nei quadri di Pollock o nei molti quadri che Cézanne ha dedicato alla montagna di Saint-Victoire. Quindi queste costanti, queste invarianti sono, da una parte, le valutazioni, lei lo ha ricordato, le valutazioni sono molto care negli Stati Uniti sotto qualsiasi punto di vista, sotto qualsiasi rapporto tecnico che possiamo prendere. Non sono care soltanto se le mettiamo in relazione al rendimento obbligazionario, ai titoli di Stato americani, i treasury. In questo caso appaiono ragionevoli, e questo ci rimanda magari a prestare attenzione a ciò che accade dentro la politica monetaria e ciò che accade all'inflazione. Forse l'inflazione è il serpente corallo della trasmissione di Meaz di qualche settimana fa, cioè che sembra domesticabile, poi magari si rivela con il morso velenoso, e in questo caso potrebbe essere anche le valutazioni tirate di oggi. Comunque c'è molto ottimismo, c'è forse anche troppa compiacenza, e questa è la parte forse vulnerabile per come si presenta il mercato. Quindi, dopo il Nobel peraltro a Robert Thaler, magari qualcosa di interessante va detto a proposito del comportamento degli operatori, allora, Benetti? Assolutamente sì, noi siamo impastati di emozioni, siamo donne e uomini che proviamo emozioni, abbiamo bisogno di anniversari, abbiamo bisogno di numeri tondi, appunto il 23.000 che lei ha appena ricordato. Però appunto, facendo un pochino di storia, il Dow Jones è il vecchietto di Wall Street, è un indice che ha 120 anni di vita, 121, quindi dimostra un po' l'età, perché è composto dalle 30 più grandi società e ne misura solo l'andamento del prezzo. Non tiene conto della capitalizzazione, cioè di quanto siano grandi, grosse le società quotate, queste 30 società, dentro l'indice, un indice composto da migliaia di titoli, quindi ne prende 30, diciamo che è più un termometro e ci dice che come sta andando la borsa, e non è un barometro, non ha nessuna valenza predittiva. Quindi questo da Benetti ci dice sostanzialmente due cose: che l'idea di rivedere ancora questo indice in salita è assolutamente possibile, cioè non possiamo desumere dall'andamento di quest'anno che ha sorpreso molti analisti, l'abbiamo già detto altre volte qui a Due di Denari, tutti si aspettavano che il 2017 sarebbe stato un anno difficile per l'indice di borsa americano, invece abbiamo visto un record dietro l'altro. E poi che però tutto questo, questo ottimo andamento non sta a segnalare necessariamente un ottimo andamento di tutta l'economia americana, cioè non possiamo basarci solo sull'indice di borsa per dire ah lì oramai siamo assolutamente fuori dalla crisi, tutto il mondo è meraviglioso e tutto si è ripreso, anche perché ci sono delle incertezze, non so, anche sulla, pensavo alla nomina del governatore della Fed che adesso si ricomincia a discutere con vari candidati. Assolutamente. Sì, c'è questo aspetto che in effetti esercitarsi, lei lo ha ricordato, esercitarsi nelle previsioni è sempre un esercizio pericoloso. Diceva Niels Bohr, fare previsioni è difficile, soprattutto sul futuro. Quindi appunto l'andamento della borsa ha sorpreso, e anche l'andamento dello stesso dollaro, ad esempio, rispetto alle previsioni di inizio anno. Però c'è da dire in effetti che l'economia, o perlomeno il macro quadro dell'economia, è molto positivo. Se davvero dovessi esercitarmi una previsione da palla di vetro, magari più che Due di Denari facciamo i tre del Campari, quindi un po' di alcol che può fare una, può facilitare una parola di più sul futuro, c'è carburante nell'economia reale e il carburante nell'economia reale fa sì che ci siano attese sugli utili e le attese sugli utili delle società quotate fa sì che anche l'indice, che gli operatori guardino con favore agli indici, appunto all'investimento azionario. Qual è la vulnerabilità di questo quadro? La vulnerabilità è che la liquidità che la dottoressa Rosciani ha appena ricordato, la liquidità immessa nelle banche dalle banche centrali in tutti questi anni ha fatto una sorta di ottundimento della percezione del rischio. Quindi c'è molto ottimismo, però le banche centrali, la banca centrale americana sta virando, sta facendo una virata importante, molto graduale, un po' come le petroliere degli anni 70, molto lunghe, 300-400 metri, che hanno bisogno di molto mare per fare la virata, però sta virando e il mercato se ne sta quasi con una olimpica indifferenza, non segue questa inversione. In più c'è la incognita del nuovo presidente e altri quattro membri che dovranno essere nominati nel corso del 2018, e anche questa è un'incognita di cui tenere conto. Direi che l'aspetto vulnerabile oggi della borsa americana è proprio su cosa accadrà alla politica monetaria, perché è solo in rispetto ai rendimenti obbligazionali che queste valutazioni appaiono ragionevoli. Infatti c'è grandissima attesa per l'imminente meeting della Banca Centrale Europea, dove Mario Draghi appunto proverà con maggior chiarezza a formulare le sue intenzioni per i prossimi mesi. Detto questo, Benetti, adesso la salutiamo, ma un minuto di commento glielo chiedo a proposito delle novità che sono arrivate proprio negli ultimi istanti, a proposito del durissimo braccio di ferro che si sta consumando fra il governo di Madrid e la Catalogna, perché l'esecutivo spagnolo guidato da Mariano Rajoy ha fatto sapere che proseguirà nel suo processo di sospensione dell'autonomia della regione catalana, ed è una risposta che è arrivata dopo che il presidente indipendentista Puigdemont, che doveva rispondere oggi all'ultimatum di Madrid, ha fatto sapere che dichiarerà l'indipendenza se il governo centrale proseguirà nel suo intento di sospendere l'autonomia. Ci chiarisce un po' questa situazione, chiaramente con i suoi riflessi sui mercati finanziari. Dopo queste notizie, le borse europee, che erano abbastanza prudenti, hanno virato con maggior decisione in territorio negativo, e particolarmente penalizzate sono proprio la Spagna e Milano, che sta perdendo quasi un punto. È naturale, questa è una notizia brutta, è quasi anacronistico assistere nel 2017 a questo tipo di toni, non in paesi ex colonie magari lontani, ma nel centro dell'Europa. È evidente che ci sono già focolai di crisi, non c'era bisogno di crisi o comunque di focolai di incertezza, la formazione del governo in Germania, la gestione della Brexit, certamente non si sentiva la necessità di un ulteriore focolaio di incertezza quale quello scatenato da una parte l'Hidalgo a Madrid e dall'altra l'orgoglio catalano che riserva dentro le radici, che affonda nelle radici della storia. E i mercati naturalmente guardano con